Berlusconi entra definitivamente nella storia. Solo lui è riuscito a unire Confindustria, sindacati e banche contro il governo. Sei un miracolo, mi dai coraggio per stare dove sto, sul giro di un equilibrio che non ho, questo sogno.